A bordo campo di Dario Ricci. La Serie B come l'NBA? Beh, lo sapete, è un tema che ha fatto scalpore e che quindi abbiamo deciso di approfondire anche qui oggi a Radio 24 a bordo campo. Perché? Perché il campionato cadetto di calcio si è dotato a partire dal prossimo anno di un salary cap, il cosiddetto tetto salariale, un limite agli ingaggi per contenere costi e ottimizzare le spese. E allora, proprio di questo oggi parliamo e cerchiamo di capire meglio che cosa accadrà nella Serie B dal prossimo anno sentendo questa scheda. La Serie B come la NBA? Sì, perché la cadetteria adotta il cosiddetto salary cap o tetto salariale, cioè un limite agli ingaggi dei giocatori. Dal prossimo anno tutte le squadre della B non potranno firmare contratti per ogni singolo giocatore superiori ai 150.000 euro lordi per la quota fissa e altri 150.000 per la quota variabile, per un totale di 300.000 euro. Cifre che riguarderanno solo i nuovi contratti e che faranno risparmiare circa il 25% delle spese dei club. Le società che non rispetteranno il tetto, votato all'unanimità dall'Assemblea di B, subiranno multe proporzionali allo sforamento, che per il 50% saranno distribuite tra le società in regola, mentre l'altra metà sarà destinato allo sviluppo dei vivai e delle infrastrutture. Inoltre, a partire dal campionato 2013-2014, ogni squadra potrà avere rose formate al massimo da 22 giocatori sopra i 21 anni, mentre fra due anni le rose saranno al massimo di 20 giocatori, oltre a una quantità illimitata di under 21. Questo quindi il salary cap, il tetto salariale varato dalla Serie B, ma qui a bordo campo ci è venuto la curiosità di vedere come si stanno muovendo le altre leghe e soprattutto il cosiddetto calcio minore, quello della Lega Pro, della ex Serie C, che ha di fronte alle porte ormai una riforma dei campionati che è in arrivo e che già ha preso delle contromisure proprio per contenere i costi e ottimizzare le risorse. E allora, benvenuto a bordo campo oggi al direttore generale della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Benvenuto, dottor Ghirelli. Grazie del benvenuto, ma grazie a voi. Ecco, dottor Ghirelli, entriamo subito nel vivo del discorso. Dicevamo, salary cap, tetto salariale della Lega B, che ha meritato giustamente le prime pagine di tutti i giornali, ma anche la Lega Pro si sta muovendo, si è già mossa anzi in questa direzione. Voi avete varato un altro concetto, quello di budget, vero? Noi abbiamo varato esattamente quello che l'UEFA sta dicendo. Cioè nel senso che sono i budget che fanno riferimento, cioè il fair play finanziario, l'equilibrio finanziario si raggiunge complessivamente, non solo su alcune voci, per cui prendiamo con grande soddisfazione la questione della B sul salary cap, però per noi il salary cap è compreso nel budget, quindi nel fair play finanziario, nelle regole che l'UEFA si è dato. Ecco, in particolare come Lega Pro avete chiesto alle vostre società, in vista anche di questa riforma dei campionati che lo ricordiamo nel 2014-15 porterà la Lega Pro a contare 60 squadre rispetto alle 69 attuali, avete chiesto anche di inserire questo concetto di budget in quello di un vero e proprio piano industriale di sviluppo del club, no? Cioè c'è la necessità da parte del club di presentare alla Lega un vero e proprio business plan, se si può dire così. Noi siamo l'unica lega che sta facendo concretamente la riforma dei campionati. Siamo passati da 90 a 69 e poi passeremo 2014-2015 a 60. Da due divisioni, prima e seconda divisione, a un'unica divisione, da 5 gironi a 3 gironi. E lo basiamo su alcuni punti cardini. Il primo è il fatto che c'è una crisi economica e quindi c'è l'esigenza di dare una risposta, le aziende sono in crisi, i pochi profitti che fanno certamente hanno difficoltà di reinvestirli nel calcio, quindi bisogna diventare in qualche modo autonomi da questo punto di vista delle risorse. Contemporaneamente sono in dubbio alcuni dei cardini sul quale si basano i contributi delle società, da un lato i 16 milioni nella filiera governo, CONI, FIGC, Lega giovani, cioè 16 milioni di contributi federali, perché sicuramente la crisi taglierà il bilancio statuale, di conseguenza arriveremo a un taglio sino appunto ai contributi federali. Secondo elemento, il contratto della ex Melandri, dei diritti televisivi, e da cui deriviamo il 10% alle campionati dei sottostanti la Serie A, certamente sono stati ottenuti da una Serie A che ha fatto un contratto stupendo, incredibile date le condizioni, ma che certamente al termine, cioè fra due campionati, risentirà della crisi. Ecco, questo è il contesto, questo è il contesto generale. Voi, ecco, avete adottato questa misura che in soldoni, tecnicamente, praticamente, cosa impone ai club? Impone un budget, quindi una cultura d'impresa. Quindi il fatto che deve essere all'inizio del campionato dichiarato da ogni società quale sia il budget che presenta e poi verrà verificato trimestralmente. Se in quella fase della verifica si dovesse determinare uno sforamento, ecco, a quel punto ci sarà un mese a disposizione del club di intervenire per ripianare. Se non lo facesse, arrivano una serie di provvedimenti. Il primo, il potere sostitutivo della Lega, che interviene per spostando quei contributi di cui ho parlato prima, spostandoli direttamente nei pagamenti e quindi contemporaneamente assicurando equilibrio economico-finanziario e regolarità del campionato, mettendo tutti sullo stesso piano. Quindi alla società invece di arrivare i contributi vengono subito messi alla voce dei pagamenti, quindi non gli vengono erogati. Quindi, dopodiché la società ha due elementi che si determina: uno premiale, cioè nel senso che solo le società che non rispetteranno i budget nel campionato successivo avranno un aumento del 10% della fideiussione, quindi non tutte le società, e secondo elemento vi è un meccanismo di penalizzazioni. Ecco, lo paghi, terzo elemento, lo si paga anche in campionato, insomma. Esattamente. Terzo elemento, facciamo un esempio concreto: oggi se le società mi presentano 10 contratti di calciatori e questi contratti sono dal punto di vista contrattualistico perfetti, io li devo prendere. Nel momento in cui scatta il budget e non c'è copertura finanziaria, io li respingo. Le chiedo ancora, dottor Ghirelli, nel momento in cui chiaramente una società retrocede nelle categorie inferiori o viene promossa in Serie B, a quale regolamento deve rifarsi, a quali norme? Ecco, da questo punto di vista, a che punto siamo nel dialogo tra le leghe? Perché voi state facendo un'opera importante, la Lega di Serie B, abbiamo visto con questa misura che ha attirato l'attenzione di tutti noi media, però le fasi di passaggio come vengono gestite? Quando scendono da noi devono rispettare le nostre regole, quando salgono in Serie B rispetteranno le regole della Serie B. È semplicissimo da questo punto di vista. È semplicissimo a parole, perché poi nei fatti vuol dire che devi un po' cambiare attitudine, attenzione su alcuni punti piuttosto che su altri. Bisogna cambiarlo, perché bisogna porsi il problema del perché la gran parte delle società di Serie B che scendono da noi falliscono. Vedi Piacenza, vedi la Triestina. Molto probabilmente c'è un sistema che bisogna riformare. Faccio un esempio soltanto. Cioè arrivano con un arretrato di IVA che in genere è da 5-10 milioni, perché gli è consentito di utilizzarlo come cassa, arrivano con una caduta che è di circa tra i 4 e 6 milioni da quanto prendono dalla Serie A, portano dietro dei contratti eccessivi e quindi dal punto che non riescono a scaricarli dei calciatori, e poi arrivano da noi, falliscono. Evidentemente bisogna mettere in moto un meccanismo, non tanto che si rispettino le regole, ma si modifichino le regole in modo tale che i campionati reggano e le società reggano. C'è sempre la preoccupazione fondamentale di portare a compimento il campionato e quindi accompagnare i club alla fine del campionato, ma non è sufficiente questo, occorre un equilibrio finanziario, economico-finanziario, che dia stabilità al club. se no altrimenti il calcio è pieno di fallimenti. Dottor Ghirelli, mi sembra importante che i primi a chiederselo siate proprio voi della Lega Pro, che del calcio rappresentate le fondamenta, no? Perché poi quello che succede alle alte quote della Serie A è quasi un mondo a sé stante, ma la crisi... Mi posso permettere una cosa? Noi questa riforma ce la siamo fatta tutti insieme, tutta da soli, per un semplice motivo, perché c'è una differenza sia rispetto agli altri. Vede, noi discutiamo il 21 di novembre del passato anno, 2012, noi la riforma l'abbiamo fatta, gli altri la faranno. Il problema è che se avessimo ragionato aspettando gli altri, noi saremmo ancora alla faremo, che in Italia la faremo, la riforma, spero che non sia per le calende greche quando sia troppo tardi, quindi c'è un bisogno di urgenza di intervenire, perché non c'è solo il bisogno di intervenire in Lega Pro, c'è un bisogno di intervenire in tutte le leghe. E allora Francesco Ghirelli, importanti le novità che arrivano dalla Lega Pro in termini di bilanci e di conti a posto, importanti soprattutto per il futuro del nostro calcio. Grazie per essere stato nostro ospite, al direttore generale della Lega Pro. Direi che questo è solamente il primo appuntamento, perché torniamo a sentirci presto, dottor Ghirelli, per vedere come procede questa riforma, no? A completa disposizione e grazie per l'attenzione. A bordo campo. Taranto sei forte, Taranto sei grande, Taranto sei tutto per noi. Taranto sei vivo, Taranto sei bello, Taranto sei ognuno di noi. Oggi a bordo campo torniamo su un tema che ci ha parecchio interessato in queste domeniche, quello dei supporters trust. Come ben sapete, questi gruppi, queste iniziative volute direttamente dai tifosi per entrare nella stanza dei bottoni delle società di calcio. Abbiamo raccontato la situazione in tutta Europa, abbiamo visto i casi di Austria e di Inghilterra e anche di Spagna, per capire come funziona all'estero questa nuova strada che in realtà già da qualche anno il calcio europeo sta percorrendo in alcuni esempi significativi. Ma i supporters trust sono attivi anche in Italia, vivono e lottano a fianco a noi, viene da dire, visto che è un po' una rivoluzione questa per il calcio, soprattutto per quello professionistico. E allora, dei tanti casi che vogliamo mettere sotto i riflettori qui a bordo campo, abbiamo scelto oggi quello della Fondazione Taras, il trust dei tifosi, che di fatto ha rianimato, perché questo mi sembra il termine più appropriato, il Taranto Calcio. E allora, nostro ospite è il vicepresidente della Fondazione Taras, Gianluca Sostegno. Benvenuto Gianluca. Grazie per l'invito a voi. Allora Gianluca, situazione del calcio a Taranto, che intorno al 2011-2012 era di fatto disperata, no? Beh sì, è accaduto nella scorsa stagione agonistica che la S Taranto, mentre i tesserati, i calciatori della S Taranto compivano il loro dovere sul terreno di gioco vincendo sostanzialmente il campionato, quindi facendo più punti rispetto a tutte le altre concorrenti, in realtà la società sportiva non compiva il proprio dovere sul proprio terreno di gioco, vale a dire quello prettamente economico-finanziario, non corrispondendo quindi stipendi, contributi e tasse. Questa circostanza, secondo le attuali norme federali, determinano un deferimento e quindi, una volta accertata questa infrazione, dei punti di penalizzazione in classifica. Per cui il Taranto Calcio, pur avendo vinto sul terreno di gioco il campionato, si è ritrovato secondo alle spalle della Ternana. E chiaramente a quel punto ha dovuto partecipare ai playoff, che purtroppo, come tradizione, vedo nel Taranto quasi sistematicamente sconfitto. Ecco, a livello societario, mentre arrivava questa delusione sul campo, cosa accadeva, Gianluca? Ovviamente giungevano le note, le informazioni sulle difficoltà finanziarie della società, arrivavano i punti di penalizzazione. E intorno a gennaio a febbraio un gruppo di tifosi ci siamo un attimino riuniti, abbiamo pensato quanto potesse essere bello, interessante, insomma, in realtà partecipare alla vita societaria e verificare un po' tutti gli aspetti, ritornare un po' a un calcio sostenibile e pulito con i tifosi all'interno. Quindi abbiamo realizzato un'associazione di promozione sociale, appunto l'attuale APS Fondazione Taras, con l'obiettivo, con il desiderio in qualche modo futuro di partecipare alla vita del club. Che cosa è accaduto in particolare? Il Taranto, dopo aver perso i playoff, dopo essere stato eliminato dalla Provercelli, non ha avuto la forza economica di iscriversi al proprio campionato di pertinenza, e nonostante tutte le rassicurazioni che nel frattempo giungevano dalla proprietà. Per cui ci siamo ritrovati da una possibile Serie B al nulla, perché non avevamo neanche più una società di calcio, quindi c'era soltanto la possibilità di sfruttare il lodo Petrucci e quindi iscrivere la società a due campionati al di sotto di quello di pertinenza. Il problema era esattamente quello, cioè costituirla una società di calcio. Quindi per voi tifosi che eravate avvicinati come apprendisti, vi siete subito trovati invece al timone della baracca, insomma. Sì, gli eventi insomma hanno avuto un'accelerata veramente inaspettata e quindi gioco forza ci siamo ritrovati a crescere in maniera, tra virgolette, frettolosa. Il tempo passava, il termine per l'iscrizione al campionato di Serie D, quindi avvalendoci del lodo Petrucci, scadeva il 6 agosto, però nei mesi di giugno-luglio in realtà c'erano tante voci, tanti imprenditori apparentemente interessati, però di concreto non registravamo assolutamente nulla. Non vi siete persi d'animo e siete però scesi in campo in modo ancora più risoluto, no? Sì, guarda, abbiamo praticamente costituito una vera e propria società di calcio, il Taranto Football Club 1927, l'abbiamo plasmata proprio sui criteri dei supporter trust, quelli che sono, diciamo, quelli cui ci sentivamo più vicini concettualmente, che sono proprio quelli tedeschi. Abbiamo costituito questa società redigendo lo statuto, quindi facendo sì che i tifosi avessero dei diritti speciali all'interno di questa società, come la partecipazione societaria e due consiglieri all'interno dello stesso Taranto FC. L'abbiamo costituita questa società nell'attesa, nella speranza che poi gli imprenditori interessati potessero in qualche modo rilevarne le quote societarie. In realtà il tempo passava e nulla accadeva. Questa società l'abbiamo costituita, ci sono voluti 15 giorni. Fortunatamente si è creata una cordata di imprenditori che all'ultimo momento si avvalsa proprio di questa società già precostituita. Oggi però siete ancora nella stanza dei bottoni in modo significativo, vero? Assolutamente sì, deteniamo il 17,50%, abbiamo due consiglieri all'interno dello stesso Taranto FC e secondo lo statuto che abbiamo creato noi spetta anche alla Fondazione Taras il collegio sindacale, quindi riteniamo di essere veramente proiettati nel futuro, siamo tra le primissime società in Italia ad aver avviato questo progetto e tra l'altro in questi giorni stiamo partecipando anche alla ricapitalizzazione dello stesso Taranto, che ci vede partecipi appunto con un capitale di circa 30.000 euro teso a difendere la nostra percentuale all'interno della società e ci stiamo dando un grande affare, penso che, spero e mi auguro che alla fine ci riusciremo. Per chiudere, Gianluca, immagino che questo nuovo Taranto, il Taranto dei tifosi, scenda anche in campo per la comunità così fortemente provata dalla vicenda Ilva, no? Assolutamente sì, ovviamente i tifosi del Taranto sono anche cittadini della città di Taranto. Una città, come voi ben sapete, purtroppo martoriata da tutte le vicende, da industrie pesanti che sicuramente stanno arrecando e hanno arrecato tantissimi danni alla salute dei cittadini. L'augurio che dal calcio e dalla società creata e voluta dai tifosi possa anche risorgere la stessa città di Taranto. Un progetto ambizioso, ma noi ci proviamo. Gianluca Sostegno, vicepresidente della della Fondazione Taras, grazie per essere stato nostro ospite. Beh, un'ultima curiosità, il campionato come sta andando, Gianluca? Dopo un girone di andata piuttosto disastroso, la squadra si è ripresa alla grande e oggi sostanzialmente veleggia al centro classifica. L'obiettivo è quello chiaramente per gli anni futuri di ritornare nel calcio che conta. È quello che vi auguriamo, grazie a Gianluca Sostegno, vicepresidente della Fondazione Taras, e buon calcio anche a Taranto. Grazie a voi. Anche per la puntata di oggi di A Bordo Campo è tutto, un grazie a Gianmarco Ferronato in regia, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito web www.radio24.it, scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e dialogare con noi sempre attraverso il nostro blog sul nostro sito. L'appuntamento come ogni domenica è per la settimana prossima alle 14.30 e il sabato mattina in replica alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.